canale 10. CQ canale 10. Avanti 10. Avanti. Ciao, sono Andrea. Ciao Andrea, Natalino qua da questa parte. Sì, ciao Natalino, come stai? Buonasera. E insomma, così così. Così così. Numero quanti tre? La pressione è scesa comunque. Ah, bene, bene. L'avevi fatto quel controllo che mi dicevi, Natalino? Quale controllo? Sì, quello dei parametri che ti stavi segnando tutti i giorni. Lo sto sempre facendo. Sono già 2 settimane, adesso lunedì gli mando l'altro alla dottoressa. Ma comunque è scesa, mi hai detto, no? L'importante è quello. Era perché la pastiglia era troppo bassa, me l'ha aumentata e mi ha abbassato. Bisognava adattare allora il farmaco, dai, meglio così. E tu come stai, come ti senti? No, sintomi non ne avevo, ero asintomatico in quel senso lì. Dai, almeno questa è in via di sistemazione. Va bene. Ok, allora rimaniamo in queste X, alle prossimine, Natalino. Buona serata. Buona serata anche a te, ciao Andrea, grazie per il QSO. Grazie a te, ciao, buona serata. Santiago, mi pare a te. Strano, eppure è passionario. notizia. Io penso un attimino, non ho mai detto nulla, vuol dire che io stavo... Ah, tu stai uscendo bene, sono io che non sento Antonio. Lo sentivo sempre bene, adesso non lo sento. E tu pensa che sei 5, arrivavi 9,5 a casa, 9,5, 9,10, adesso non mi ricordo esattamente, ma superavi il 9. Cosa vuoi dire? Non è strana la cosa. E magari ha preso finita l'antenna, boh. Ha fatto male, ne va a paro, vedi? Non è cazzo di essere, è pure quattro seminari, non c'è. Strana la cosa. Ma Natalino a casa, eh? Ehi, non ti sente Natalino adesso, di solito ti senti. Ehi, sento che parla, ma è incomprensibile, qua io lo sentivo bene. Evidentemente c'è qualcosa all'antenna. Cazzo. Aspettate un attimo. Controlla il PN. Stamattina quando ho piazzato la base magnetica nuova, praticamente andava a fare uno scalo stazionario a me. Ma cosa è successo all'antenna vecchia, alla base magnetica già? Tornando dal Ghero, da me si ho schiacciato troppo, verifica la base magnetica e ha sfregato in terra, ha spaccato un calamita e quanto c'era. Ma com'è non si faccia di un virus? È dovuto cambiare la base magnetica, praticamente non si rimane. Ma dice che resiste a 160 km orari, no, a 110 io. E comunque già l'ho provata. Lo sai cosa ci vorrebbe? Quella, la base magnetica, quella da 120, invece c'è quella da 60. Com'è la specie di... Già, sto mangiando. E mangia, mangia. Buon appetito. Thank you. Antoine. Bombolino, bomboletto, ci sei? Già. Attenzione, canale 10. Avanti sul 10, in ascolto. Caro, ciao, buonasera. Buonasera, quattro corsie, sto per arrivare a Sassari. Ieri ti ho cercato e il tuo collega mi ha detto che non si poteva spostare e quindi me ne sono andato via. Ho chiesto a quel collega che c'ha l'entrata, dico gli occhiali, mi ha detto lì non può passare che quelli che mi invadi. Ho detto guarda, sto cercando il signor Carlo, ma non può chiamare per cortesia. No, guarda, da qui non posso muovermi perché sto lavorando, quindi non mi posso muovere. Vai, cerca qualche poliziotto, ma adesso se lo trovi e fate chiamare da te. Invece non ho visto nessuno, ma adesso andare. Sarà per una prossima volta già. E poi, Carlo, al ritorno me ne è successa una grossa. E cosa ti è successo? Mi è volata la base magnetica. Non ho capito già. Mi è volata la base magnetica. Assarola. E come mai? E praticamente ho smaccato tutta la base magnetica, l'ho dovuta comprare nuova perché era spaccata. Si è spaccata la calamita, poi strisciando si è consumata anche quella protezione che c'è per non graffiare la macchina. E quindi lo facevo a me. Comunque non te la graffiamo la capota. Ma dove sei adesso? Guarda, sono alle curve entrando a Sassari, le curve che ci sono prima sulla 131. Ti sta comprendo la propagazione ciclista. Adesso dovresti sentirmi un pochettino meglio, perché adesso salgo che lì c'era il ponte anche. Sì, adesso ti ascolto Santiago 7, fa benissimo, la radio è buona. Ok, ho detto la capota non te l'ha graffiata però. No, tantino va appena appena, una cosa è percettibile che esce con la pasta abrasiva, ma è un graffettino piccolo piccolo. Meno male, perché pensavo peggio, dai. È importante, e l'antenna non si è rotta, no? No, l'antenna no, l'antenna è andata a posto. L'ho già montata, la base l'ho ripiazzata tutto. Però lo sai cos'è? Ci vorrebbe la 120 la base per quell'antenna, invece ce l'ho da 60. Io ce l'ho da 16. Se le prende Fusaro, quelle piatte e larghe. eccetera, non gli è mai successo niente, capisco. E allora come la mia, da? Quando era l'M. E adesso non me lo ricordo che marca sia. Io l'ho presa, ho dovuto, per poterla scrossare sotto, ho dovuto usare la fresa, perché la vernice non ne usciva. Ma la vernice ci sono stati muri di chiudere, basta scaldarla e ne esce. Oppure li metti l'accettone, non vedi come si dice. Non usciva manco se ti ammazzavi di cantare la duccia. Ho dovuto usare la fresa col trapano, piano piano, e me l'ho tolto. Se no non faceva massa. Che l'ho controllata col multimetro io. Ma scusa, tu sotto non c'hai la protezione per non graffiare la macchina? Io l'ho tolta la protezione per poter piazzare la, la basetta e poi ce l'ho rimessa. E c'è una gomma, c'è. Ma io non ho capito questa vernice, l'ho presa. Dov'è? Dove attacchi l'attacco dell'antenna? Ma guarda questo studio. Cazzo, non fa massa, mi. Sta prendendo, vedi che salta di cazzo. Ah, capito. Sotto, diciamo. E allora sotto bisogna togliere la vernice, se no, se tu non la togli sotto la vernice, non fa massa come si deve. Infatti aveva una cannonata che s'antenna. No, la mia da 1 euro in stazionale va benissimo adesso, adesso va bene. Prima non andava bene, ma quando ho piazzato la nuova vasetta, l'ho piazzata e andava tutto fatto con lo scala di stazionale. Quello che mi faceva partire il fusibile, che c'erano troppo stazionari, e deve essere che lui lo faceva partire con l'asse che è meglio. Infatti gliel'ho messo da 9, ma se ero poco li mette dopo con l'asse che è meglio, perché era un stazionario sicuramente lo facevano partire, andava a massa tutto quanto e partiva, capito? Sì, ho capito. Infatti se ascoltavi non partiva, se invece cliccavi il microfono, puff, partiva. Avanti Carlo, avanti. Io sono arrivato in via Milano adesso. Comunque io ho controllato sulla mia vernice, non ce n'è, non ce n'è. Ho controllato con la torcia, ho levato il cappuccio di gomma e c'è solo acciaio. Non ho capito, no. C'hanno sovramodulato la propaganda. Nella mia base ho controllato, ma non ce n'è di vernice, ho detto. Ma ancora la mia ce n'è, infatti è strana che c'è la vernice. La mia rimane grigiastra sotto, ma non è vernice, è il colore del metallo. È come la mia allora, io l'ho guardata anche con la torcia, ma non c'è traccia di vernice, è tutto acciaio, capito? È la calamita. Probabilmente quella di Natello, come è stata verniciata, magari ha trasudato dietro, capito? Ha verniciato anche dietro. Ma aspettano da lavoro. Natalino, come mi senti? Via Milano per me. Natalino è scomparso. Santiago sì e mezzo. Ehi, già va bene. Io c'ho un'antenna che non è molto performante su questa base magnetica, ma appena ho più di tempo già me la procuro un'altra buona. Ma sì, con questi via 9, a volte si muove la lancia tra 6, 7, 9, capito? Dipende, adesso sto salendo ancora più su, adesso sono dove c'è via Milano 23, capito? Non c'è nessun altro Gianni stasera in radio, non ho sentito nessuno, io ho attaccato da Alghero ma non sentivo nessuno. Meglio pochi buoni, no, non ho sentito nessuno, ho sentito Antonio Popolo ma sta facendo un passo di radio, ma detto, come mai stai facendo così basso a me? E io ho detto, allora radio sei più basso, c'è Santiago 5, mi arrivavi sempre 9.5 di segnale. E Natalino mi ha detto, allora tu già non c'è niente, lui, anche io non lo sento, lo sento bisbigliare ma non si capisce cosa dice. E sicuramente va acqua nell'antenna o in tabù. Non ho capito chi è questo. Antonio da via Milano. Il cavolo, ma ieri sta facendo forte Antonio. C'è una propagazione allucinante di cori. Ho detto, ieri l'ho sentito Antonio da Milano e lo sentivo forte, capito, con l'antenna. Ma probabilmente stanotte che ha preso umidità, con l'antenna di corpo non umidità, danno problemi. Ma Antonio ha detto che l'aveva isolata bene, cioè io non dovrebbe farlo, perché l'ho isolata bene, ma a quanto pare non è bastato. Oggi io non l'ho sentito, non l'ho sentito. ho sentito niente. Stamattina ho parlato 10 minuti con Luca e poi alle 11 sono uscito alle 19. Non so quando tornare qui a Ghero. Quando dovrò tornare a prenderlo sicuramente. E magari ci incontriamo allora, magari me lo fai sapere. E se mi dici, già ti lascio il cellulare, guarda, il mio numero ce l'ha anche Natalino, ce l'ha Luca, puoi dare da loro, diglielo che già te l'ho detto io, capito, e quindi te lo possono dare tranquillamente loro, così mi mandi un messaggio quando sei là e già esco. Se te lo puoi segnare il mio, te lo segno, non c'è problema, non ho problemi a dare il frequente. Adesso non me lo dare che sono in macchina che sto guidando. Ah, adesso stai guidando, poi arrivi a casa magari. Mi è dispiaciuto perché ho chiesto, pensando che mi c'è successo, te lo chiamo, invece. Ma allora non posso muovere, chiamo qualche poliziotto, qualche duro, perché non mi posso muovere da qua. Quello che sta al centro, là, quello delle due parti dove ci passano gli invalidi, l'altra parte per il personale, eccetera, eccetera. Ho capito, quelli che sono lì al termoscanner controllano il Green Pass, lo so, però a volte sono in due, uno si alza e già mi poteva chiamare. La massa di Nivaria, come dice Antonio. Deve essere c'è un qualcuno attaccato. Va bene, dai, poi già ci scambiamo il numero di telefono. Io già mi posso sganciare un attimo, capito? Va bene, va Marco. C'è andato un po' a trovare la sorella, quindi si rilassa un po' perché era un po' giù per la storia della guerra, per detto vai a fare il cuginetto, vai, è stata un po'. Ho capito, io già, magari vengo dopo a casa che è arrivato, sono in via Lunettone adesso, quindi tra qualche minuto sono a casa, partito, e poi se è possibile riprendo la vita. Va bene, io sono qua, dai. Già. Ciao, buone cose, ti aspetto se avvicini. Quindi cenata eccetera, adesso ho accesa la radio a vedere se c'era qualcuno, ho visto che c'era qualche portante per cui ho provato a entrare e ho sentito a te. Sono pure io, sono arrivato 10 minuti fa, neanche 5 minuti, non so se mi sentite, avanti. Sì, Luca, Daniele. Chiamoci. Andrea, io e tu. A Mogorino, ciao Andrea, non so se mi ascolti, avanti Andrea. Ciao, sì, ti ascolto, sempre molto alto, ti ascolto benissimo però. Molto alto? Aspetta, io posso accontentare, guarda un po' se va meglio. Va meglio, perché quando è troppo potente il mio stacca e mi dà assalti, devo attenuare il segnale. Che va in distorsione la ricevente, così è. K, positivo. Vediamo un po', bombolino ci sei o le bombole? Ma ne hai bombole a quei prezzi, gratis, a tu. Avanti Carlo. Buona Buonasera Luca, io come sto uscendo? Bene, vado così, io sono solo con i watt della radio adesso. Sì, benissimo Carlo, va bene, sei a fondo scala. Sì, benissimo, perfetto. Mi senti, va bene, sono troppo alto. Perfetto, diamendo la bassa, eh? Una radio bellissima. Ho capito, perché Andrea sta uscendo un po' cupo, non lo so, anche tu ascolti il cupo Carlo? Un po', diciamo, sì, la voce, forse il microfono, Andrea, è un po' basso, diciamo, dai. Cazzo, ho accordato l'antenna per abbassare le stazionarie, ho ridotto anche qui i watt in uscita. Oh, allora, anche io sono rauco, eh. Allora può essere quello, la voce un po' bassa per quello. Vabbè, dai, piano piano, ci hai preso questo baracchinetto. Ma dovresti prendere, se vuoi uscire bene, un... tipo il mio 3009 così, un iPhone, tipo 4005 come ho detto fatto, con quello già esci bene, con quello non c'è da sbagliare. No, KK, sicuramente adesso mi attrezzo, ho iniziato a studiare anche per l'esame, quello serio, e adesso mi attrezzo anche con qualcosa di meglio. Poi volendo puoi acquistare l'MP4, fai un ponticello, sì, bene. Questo io sto usando le Mavic più 4, ho capito, con 3009. E poi c'ho anche il Typhoon, ma sicuramente il Typhoon esce molto meglio. Per il momento è parcheggiato, mi dà bicicletta, ho mandato le foto, quello è parcheggiato. Mi sa che domani, cioè io stavo cercando la scatola di questo 3009, che è un po' difficile trovarla, perché se la trovo, lo conservo l'apparecchio dentro la sua scatola e mi uso il Typhoon provvisoriamente. Poi quando sarà lo levo dalla scatola, intanto lo attacco giusto per farlo funzionare. Avanti Carlo. Sì, mi sa che mi avevi mandato le foto di quello, già l'ho visto io. Andrea, quindi se fai l'esame te la stai prendendo davvero sul serio questa volta? Ho sempre avuto la passione, se mi sguscio, soltanto per incontrare di sguscio, io ho iniziato già a studiare, ma queste cose le ho fatte anche per passione, per conto mio. Adesso sto vedendo un po' di cose, un classico testo, diciamo, consigliato da tutti, un po' di quiz, ho visto che c'è il testo dei quiz. Ma secondo me è molto bello l'argomento, poi mi piace iniziare a progettare antenne, cose di questo tipo qua. Sì, se c'è la cosa, la passione, già è bello. Io, diciamo, l'avrei voluto fare anche io, solo per mancanza di tempo, con i turni di lavoro non lo so se ci riesco, capito? Forse avendo un programma ben definito, magari come stai dicendo tu, se si trova qualcosa di quiz già pronti, che però rispecchiano poi quelli che veramente, insomma, saranno le domande che ti chiedono. Un tentativo ce lo farei pure, giusto per provare almeno, perché io non l'ho mai dato, capito? Ma io mi sono preso il programma ufficiale, i libri ufficiali, sto iniziando a vederli, ci sono due o tre corsi molto belli fatti da Ari su YouTube, proprio fatti veramente bene di preparazione, e l'esame a novembre quest'anno è a Cagliari, è stato già definito la data, adesso bisogna capire la modalità, se lo diranno a giugno, se lo rifanno sempre online oppure scritto. Ho capito, perché online lo stavano facendo per i problemi di Covid, però se ne usciamo definitivamente dai problemi di Covid penso che si dia sempre in maniera tradizionale, cioè andando là a Cagliari, e non so come sia là a Cagliari, capito? Ma in alcuni ho visto che danno 30 domande e ne devi superare il 60%, in genere però sono 60 domande e ne devi superare 40, questa un po' è l'idea, però sono, io ho visto, cioè qui per la patente, no? Quando ti studi i capitoli nel libro, poi ci riesci a rispondere in modo corretto alle domande, quindi tempo ce n'è, io sto facendo tempo perso, non è che ci sto dedicando moltissimo, però piano piano, un 3 o 4 pagine al giorno, mettendo insieme le cose, prendendo le annotazioni, poi ti ripassi tutto, insomma un esamino. Avanti Luca. Sì, ma cosa succede? Perché studi quello, non studi per me, ma ti chiede altro. Se ti bucciano, maledetti. Vabbè, non lo devi preparare in una settimana, è come un esame all'università che ci metti un po' di tempo, bisogna digerirle le cose, riprenderle, capirle, schematizzartele se non ce le hai in testa, insomma, è una cosa che se la prendi per passione poi la devi capire perché ti serve, capito? Se niente, non me la sento per il momento. Per il momento non me la sento, però se voglio procuro tutto l'occorrente per studiare. E niente. Vediamo, brillamo. Ora com'è ora no. Ho altro per la testa, dai. Ho altri impegni. Poi si vedrà cosa fare. No, capo, sono d'accordo con te. Io ho 50 anni e sono 30 anni e ho sempre in mente di farlo. Adesso me lo sono preso più per gusto, capite come succede? Perché ho ripreso anche l'apparato e anche per ripassarti certe cose, per rivedere, capite? E poi quando avrò una certa età, se ci arrivo, che sono più vecchiotto, anche io sono, ne faccio 48, siamo lì, siamo vicini. Chi lo sa, mai Lea, per farmi compagnia magari, così fare due chiacchiere, c'è anche fuori, così, con una certa età, perché ho visto che lì nel link nazionale che per il momento è sospeso, non riesco più a sentire a nessuno, non so cosa è successo, e lì c'era molta gente in pensione, cioè gente grande di età, e ogni mattina entravano, purtroppo c'era sempre l'ignorante che disturbava, prendeva in giro, ogni santo giorno questo, ma comunque non mi interessa. Provate più in là, ci proverò pure io. No, io sono andato sul sito del MISE proprio di Cagliari e c'è l'annuncio questo di novembre, no? Il mese è quello lì, poi faranno i turni a seconda della modalità in cui si farà, almeno quello regionale, e dopo bisogna vedere gli altri posti. No, ma hai ragione, se ti deve piacere, se ti piace proprio l'idea, se hai una passione, se vuoi magari usare il VHF, se vuoi fare qualcosa in protezione civile, anche Sguscio c'era l'idea, speriamo che riusciamo a metterci a studiare, perché ho detto che gli do una mano, ma se c'è la volontà però di farlo, capito? Sì, si conferma, certo, ma di capo, tu non hai proprio voglia, no? Diciamo che io l'ho fatto anche un mese fa un esame con ENAC per una questione mia di lavoro, perché mi hanno promosso di passare a un livello superiore e però dovevo sostenere l'esame e quindi l'ho fatto e ho detto mamma mia, ho detto nella vita gli esami non finiscono mai, per il mio lavoro è tutto così, certificazioni, ricertificazioni, ogni 5 anni abbiamo la ricertificazione con la commissione, quindi ti chiedono gli aggiornamenti normativi sul piano nazionale di sicurezza, quindi capito, so, già c'ho le cose mie da studiare, se mi metto in testa questo, ma diciamo che questo dovrebbe essere un pochettino più piacevole, solo che io se chiedono di elettronica, di o di questo, quell'altro, io di quelle cose non ne capisco niente, capito? La mia paura è quella, poi per il resto se mi parli di propagazione, onde radio, eccetera, che cos'è un ripetitore, come funziona, questo e quell'altro, certe cose le so, perché quando c'è la passione a volte ti interessa qualcosa della legge, però di elettronica non so niente. Ti faccio un esempio, io ho studiato, quando ho preso la patente io l'ho presa nel 99, privatista, ho studiato tutto, tutti i cartelli, quello che c'era da studiare, l'unica cosa che non ho studiato, non ci credete, gli incroci, infatti quando sono andato, ho dato l'esame, ci sono passata la prima. Sì. Così funziona, lo devi dare studiando il più possibile, come gli esami, io ho fatto l'università, quindi un po' di esami li ho dati, della stessa cosa. Corsi, eccetera, ci possa dire meglio lui, capito, visto che pare interessante. stato, no? Andrea. La ripeti, caro, siamo sovrapposti. Allora, ripeto, se tu vedo che sei interessato, ci potrai dire qualcosa in più riguardo il programma, se è molto vasto, se è difficile e quali argomenti tratta, se tratta di elettronica oppure di altre cose, capito? Tipo, mi ricordo che c'era la legge di Ohm, queste cose qua, no? Resistenze, eccetera, vero? Tutto vero, ma guarda, un libro costa 14 euro ed è il libro Radiotecnica per radioamatori di Nerio Neri. Questa è la Bibbia, diciamo così, per dare l'esame. Ci vuole qualche integrazione dopo, qualche quiz, ma basta comprarselo, 14 euro, uno inizia a leggerselo e parte dalle cose che sa già, le cose un po' più difficili, magari ci vuole un po' più di tempo, ma ci arriva anche a quello, ci sono gli esercizi, è fatto veramente bene. Ci faccio un pensiero, perché spendere 14 euro in un libro non è tanto, è abbastanza, poi se ti interessa magari un po', un pezzettino oggi, un pezzettino domani, magari riesco a leggere qualcosa, ma saranno più le cose che non riuscirò a capire, capito, che altro, e quindi poi ho paura di arenarmi subito, perché se hai magari qualche persona che subito ti sa dare le spiegazioni, oppure le trovi su internet, magari può darsi pure che si possa anche riuscire, sia fattibile fare l'esame, capito? Ti ripeto, comprati il libro e dopo su internet vai su YouTube, ci sono 3 o 4 corsiari fatti benissimo. Io sto seguendo le lezioni, c'è uno fatto a Roma, un altro fatto da un altro, poi sui singoli argomenti ci sono un sacco di approfondimenti anche online se hai difficoltà, ma guarda, secondo me chi se lo mette in testa ce l'ha fatto. Volte il libro, tanto penso che si trovi anche su Amazon o cose del genere, immagino. Papà, io l'ho comprato su Amazon, da Weebly, dall'editrice Weebly, ma sempre su Amazon. Se tu metti, la copertina è verde, aggiornato alla normativa del 2021, ed è appunto questo titolo, no, che è il classico, Radiotecnica per radioamatori, ed è il punto di partenza, ce n'è anche di più rispetto a quello che ti chiedono all'esame. Capito, adesso provo a cercarlo se lo trovo. Anche a sgusto ho detto di comprarselo, e così iniziamo a segnarci i capitoli, 2 o 3 a settimana, ci vediamo, li discutiamo, facciamo gli esercizi e i quiz. Lomi, Radiotecnica per radioamatori, con elementi di elettronica e telecomunicazioni. Allora, vediamo di chi è, edizione C e C. Esatto, proprio quello lì, a me è arrivato 2 settimane fa. Aspetta, però mi hai detto Neri di... L'autore si chiama Neri o Neri? Italia, 4 novembre. Ah, è lui, Neri o Neri. Qua mi dà 14,87 euro su Amazon, è vero? Esatto, copertina flessibile 14,87. Fai giù, sotto nella pagina, c'è un altro libro che ho comprato anch'io, 1500 quiz per la patente di radioamatore, e questo è di Luigi Cavalli, costa 9,40 euro. Quiz radiotecnica per patente, questo quiz radiotecnica per patente di radioamatori, che ha la testata verde, poi ci sono delle radio. No, è 1500 quiz, 1500 come numero, scrivi 1500 quiz per la patente di radioamatore. Ma aspetta, è questo radiotecnica per radioamatori? Radiotecnica per radioamatori, quello verde è la Bibbia, diciamo, poi ce n'è un altro che è quello dei quiz, 1500 quiz per la patente di radioamatore. Quello che costa 9,40 euro, 1500 quiz per esattamente la radioamatore, che c'è una matita con un foglio bianco, io di quiz, no, e la copertina è colorata. Bravissimo, bravissimo, quello via via che ti studi i capitoli nel libro verde, poi vai a farti i quiz per vedere se hai capito tutto, ci sono le soluzioni alla fine del libro, no? Io per esempio dei capitoli che ho già studiato ho fatto i quiz e li ho azzeccati tutti. Capito, dai, 14,87 più 9,40 sono, diciamo, 25 euro, si può anche spendere, dai, in libri non è mai troppa questa spesa. Ma alla fine già è bello, magari, come si dice, a parlare fuori, quelle frequenze, vabbè, le 10.000, se non mi ricordo, le frequenze 7.000, che parlate lì, come da laterale. Intanto ti fa un collegamento così, giusto per parlare. è bello, dai. No, è bello perché puoi avere la potenza, se ti prendi la patente puoi avere la potenza che è molto alta in uscita con la patentina, poi puoi avere i canali dedicati anche alle trasmissioni digitali, cosa che non puoi fare in CB e così via. C'è un sacco di possibilità in più, eh? Sì, sì, sì, lo so, lo so. C'è una cosa con la rematoria, non voglia. Io lo so. Ci sono radio che costano anche 10.000 euro, se ti interessano. K, è vero, ce ne sono alcune spettacolari. Mi piace, c'è questo qua, bella questa, questa vabbè, questa è un po'. Io già ne ho visto, eh. Già ne ho visto radio belle. Costano. Se uno vuole una cosa bella, deve spendere. Per ogni cosa, anche se uno si vuole comprare una macchina bella, spende, è una macchina bella. Poi se uno vuole risparmiare, è così. Così è comprare la radio. Sì, io stavo guardando, niente, più che altro che, guarda, se uno proprio si vuole fare una piccola stazioncina, può anche spendere poco e ti prendi un quadribanda di quelli anche non troppo costosi, ti limiti alle VUHF e quindi dovresti riuscire magari a fare più collegamenti, perché comunque ci sono i ponti radio, quelli link nazionali eccetera, e già riesci a parlare. Quando non entri in V entri in U e in HF, quando c'è la propagazione, come ha detto Andrea, poi puoi avere più potenza tranquillamente. Se si lasciano perdere tante cose puoi fare anche un compromesso e magari riesci a limitare anche le grandi spese. Poi certo, avendo tanto spazio eccetera, allora pian piano ti compri tante radio, provi in un modo, provi nell'altro, però lì bisogna avere anche una stanza ad hoc da dedicarci, capito? No, ma adesso costa molto di meno rispetto a qualche anno fa, per chi non vuole chiaramente da subito le cose super professionali. Qualche volta che io ascolto, li sento parlare di radio DMR, che non ho capito come funzionano, però le ho viste che ci sono, però non mi sono mai addentrato a capirne il funzionamento, anche perché penso che siano sempre su quelle frequenze là che non puoi utilizzare, per cui è inutile averle. Però sì, ci sono tante cose interessanti, è tutto da vedere, però la cosa fondamentale sarebbe prima di tutto prendersi la patente, se riuscendoci, capito, e poi di seguito uno ci ragiona un po'. K, sono d'accordo. Allora, DMR è una modalità di trasmissione digitale, no? Che hanno alcuni apparati, ma io inizierei proprio dall'ascolto. Avete sentito parlare di quelle che avete, per esempio SDR che si collegano al computer? Quelle vanno da 10 kHz fino a, alcune arrivano a 3 GHz in sintonia continua. C'hanno le HF, le VHF eccetera eccetera, quindi tu te le colleghi al computer, inizi a fare ascolto, decodifica di segnali nelle bande consentite ovviamente, perché queste spaziano tutto, ma non puoi andare ad ascoltare tutto ovviamente per legge, però da lì si inizia a capire anche quelle che sono le frequenze più interessanti anche per parlare dopo, no? Sì, sì, ho capito. Ma non so quali siano i costi di queste che avete, se costeranno anche un bel po', immagino. Guarda, inizi già a giocare bene da 30 euro, e quella che costa di più è 200 euro. Quindi la spesa di queste cose qua di DMR è anche contenuta, no? Se vai su quelle chiavi lì, ovviamente da collegare al computer, e poi non so se bisogna scaricare anche certi programmi, capito? Allora, si chiamano SDR, Santiago, non DMR. SDR è per la ricezione, perché usano particolari chip che si usavano prima per le TV digitali, che qualcuno ha craccato nel 2012 e ha ottenuto questa estensione di frequenza in ricezione. DMR è un'altra cosa e funziona come radio digitale anche in trasmissione, ma adesso queste SDR stanno facendo anche in trasmissione e costano 200 euro ed hanno bande mostruose di frequenza, roba cinese al momento, però rispetto alle Kenwood, alle Icom ti consentono comunque di iniziare, capito? Se c'hai sempre la patente, perché questa roba prevede sempre il fatto che tu abbia la patente per poterlo fare. Ho capito. capito, sì, cose interessanti ce ne saranno sicuramente anche di queste cose di cui stiamo parlando, capito, è tutto interessante perché quando hai la passione ti colleghi col computer e fai insomma prove, controprove, provi le antenne, colleghi e ce ne sarebbero tante cose da fare. Luca, tu cosa ne dici? Mi sa tanto di sì, mi sa tanto di sì, ma questa c'è quando la gola boh, e vabbè dal caldo e poi esci, mamma mia, ma sotto di scatto. Guarda, non me ne parlare che anche io mi sono preso nel giro di 20 giorni due volte il raffreddore col mal di gola ed è perché quando faccio il turno di notte che sei in servizio esterno sino a mezzanotte praticamente stai entrando e uscendo dal caldo. Fanno male, capo. Non so cosa vuoi fare, purtroppo, avanti Andrea, tanto che Bobbuli non lo so fatto sentire, boh. Non l'ho sentito io stasera, Antonio forse ho sentito, no, Natalino ho sentito questo pomeriggio. Oh, comunque la benzina, sto guardando qua, allora, addirittura anche a 2,60, servita. Il gasolio 2,60 servito, la benzina 2,43 servita, allucinante. No, è una cosa allucinante. Ma se avete sentito l'assalto ai supermercati ieri? Non ho capito. Avete sentito dell'assalto ai supermercati alla Conad ieri? Sì, io sono andato all'Eurospin la sera. Per fortuna già li ho trovati due casse d'acqua, là. Due io e quattro la mia compagna. Ma poi ne sono mandate qualcuna, tre, è arrivata una signora, se li ha prese, non c'è nulla, non c'era più pasta, farina, olio, questa roba che non c'era, un esempio, pancetta, quella pancetta affumicata per fare la pasta, diciamo, quella che è giusta da questi piccolini, nulla, non c'era più niente, formaggi già c'erano, mozzarella, queste cose così, sì, ma del resto pasta proprio fatta fuori tutta. Allucinante. Secondo me Fulvio non è assicurato che non è che ci sarà tutta questa carenza. Uno sciopero degli autotrasportatori, vogliono bloccare un po' tutto il sistema viario della Sardegna per creare insomma un po' di disagi a tutti e far capire che insomma chi ci lavora con gli autotrasporti non deve subire questi aumenti indiscriminati che ci sono, perché sono troppo, perché in un attimo la benzina schizza a 2 euro, 2,60 quanto sta andando, capito? Però poi quando le cose rientrano, chissà perché poi non riabbassa più com'era, capito? La tengono sempre alta, riabbassa solo di 5 centesimi, poi risale di 2 centesimi e poi alla fine chi ce l'ha nelle chiappe siamo sempre noi, capito? Quindi gli autotrasportatori hanno tutte le ragioni, perché è tutta speculazione, perché è vero che la Russia riforniva e l'Ucraina riforniva mezza Europa, però i maggiori produttori di gas naturale, metano e di idrocarburi sono i paesi arabi, quindi basta fare i contratti con chi con le persone che li facevamo prima, insomma, e la situazione dovrebbe ristabilirsi. E adesso perché hanno messo mano alle riserve e quindi lievitato il prezzo di colpo, capito? Tanto poi tutto caricato sulle persone, sul consumatore finale, la bagassa loro, cazzo. Lo so, è vero. Stanno aumentando sempre di più, cazzo, sempre di più. Adesso questa benzina alle stelle proprio. Adesso guarda Carlo, adesso guardate, mette la benzina lì, poco a poco più su di Columbano. Io non so sicuramente dove si trova. C'era scritto 2,10 euro, sono andato a mettere la benzina a 2,15 euro. Ho detto scusa, ma la benzina a 2,10 euro e 2,15 euro. Ah, non è stato modificato. Cazzo, non è normale che la gente poi si informa a vedere che il prezzo è quello. Cioè, infinocchiare le persone proprio. Sì, lo so, io non ne ho messo benzina, ma vorrei vedere proprio a quanto è. Adesso avevo fatto il pieno 4 giorni fa e non superavo ancora i 2 euro. L'avevo fatta a Città Mercato, capito? Io lo faccio o a Città Mercato oppure in via Carlo Felice, su dove c'è Kuwait Easy che ti servi tu, e quindi era più conveniente, ma lì non superava i 2 euro quando l'ho messa io, capito? Assurdo proprio, assurdo. Avanti Andrea. È un casino, ma non sono solamente loro, non so se avete guardato le bollette, ne ho visto una, la mia, che è lievitata da 95 a 229 euro, un aumento del 254%, calcolate, una cosa allucinante, in 4 mesi. Sì, hai ragione, io pagavo sempre ogni bimestre, non superavo i 100 euro, in casa siamo in 4, no? Adesso mi è arrivata 165 euro. Capito, ho guardato ed è lo stesso consumo del bimestre precedente, del bimestre ancora, capito? Quindi da 87-90 euro sto pagando 145 e fruscia. È così, adesso aumenterà gli alimentari, aumenterà la pasta, aumenterà l'olio, aumenterà tutto quanto, e anche per noi aumenterà la benzina, perché non è che aumenti solo per gli autotrasportatori, perché c'è gente che deve andare a lavorare e non ci va a piedi. Insomma, è un casino un po' per tutti. Se poi iniziano a terrorizzarci anche sul fatto che manca la roba da mangiare, allora siamo belli che fritti. Non so dove andremo a finire. Io sono qua circondato dai negozi, no? C'ho vicino la Conad, c'ho la Sigma, c'ho Lidl vicino, però non mi sto neanche preoccupando. Quando non trovo acqua la bevo dal rubinetto, capito? Già scenderà dal rubinetto. Noi abbiamo il pozzo nel condominio e vuol dire che ci beviamo quella, al limite gli diamo una filtrata e buonanotte. E cosa devi fare? No, io c'ho da anni quei potabilizzatori collegati a tutti quei filtri a scambio ioni con ultravioletti e balle varie che ho comprato qualche anno fa, e alla fine acqua ne compro poca. Lo so, io non l'ho mai messo quello, me l'hanno proposto perché appunto avendo il pozzo condominiale l'acqua non è potabilizzata, nel senso che noi facciamo i controlli tutti gli anni, facciamo sia l'esame batteriologico, che è quello più importante, che anche quello chimico, no? E ti dice che la composizione dell'acqua è meno calcare del 30-40% rispetto a quella della rete, e poi che non ci sono Escherichia coli, insomma quella batterica e batteri del genere, e quindi tutti gli anni la eseguiamo, l'analisi, ed è a posto, però per essere sicuri non l'abbiamo mai bevuta. C'è un signore genovese che abita all'ultimo piano che si è realizzato uno di quei sistemi di filtraggio, lui la filtra, addirittura la dà anche alla moglie, e lui abita qua da più di 40 anni e adesso ha raggiunto la veneranda età di 92 e ha sempre bevuto l'acqua del pozzo. Se la sterilizzi con i raggi ultravioletti, perché alcuni di questi ci sono, c'è la lampada, e alla fine la puoi bere perché abbatte la carica batterica, e comunque la potresti bere, ma comunque il cloro glielo puoi sempre aggiungere tu. Gli metti la mucchina e dopo gli fai un passaggio là e ti toglie sia la mucchina che i batteri che la mucchina ha ammazzato. Guarda, prima o poi lo farò anch'io una cosa del genere, perché non se ne può più di comprare acqua, poi adesso se mi dici che ci sono problemi, che non se ne trova più, alla fine sei quasi costretto a farlo un impianto di potabilizzazione del genere. No, ma già si trova, secondo me adesso è tutto, vedrai che, e secondo me si risolve anche questa guerra, non in tempi lunghissimi, almeno spero così. Avanti Luca. Un casino, sei diventato veramente un casino, basta il Covid adesso. Come stai riprendendo? Avete visto questi 2 o 3 giorni che stanno risalendo i picchi? Cosa Carlo? Ma Andrea? Che il Covid sta risalendo poco, ma sta risalendo questi ultimi 3 o 4 giorni. Sì, per quelli che non sono vaccinati. No, anche per i vaccinati, perché lui si diffonde anche per i vaccinati. Un mio amico oggi l'ho sentito, terza dose di vaccino, ma era messo male, non riusciva a respirare bene la notte, mi ha detto. Quindi bisogna comunque starci attenti, perché è sempre in giro. Con la scusa della guerra, che non lo sentiamo tutti i giorni come prima notizia, non è che se ne sia andato, non so se è preso l'idea. è sempre lì. No, io per il momento già sono a posto, mi vaccino. La quarta dose la deve fare quelli, come si chiama? Tipo mia madre che ci ha fatto l'ugia, dai. I soggetti deboli, immunodepressi, insomma quelli che hanno altri problemi la devono fare. No, comunque bisogna sempre starci attenti, se te lo prendi blando, però comunque te lo puoi prendere lo stesso, ecco. Ma io l'ho passato, KK. Forma leggera, c'ho questo mal di gola brutto, ma se mi amico riusciamo a parlare, c'è proprio la voce, sembrava un filo di coso, di robot, sembrava. Avanti, Carlo. Gli stavo chiedendo, forse ci siamo un po' sovrammodulati, se quel centro vaccinale delle tue parti l'hanno chiuso definitivamente. Per il momento sì, all'inizio di vaccini adesso. Allora è vero, perché mi dicevano che adesso rimane aperto solo Rizzetto per le vaccinazioni anti-Covid. E si conferma, sì, c'è scritto, c'è proprio il foglio fuori, i vaccini fanno lì a Rizzetto, poi si aumentano, cioè, se devono fare magari le, come si dice, la quarta dose, questo per noi no, non lo so, poi boh, si vedrà. A meno che aumentare tutto di guapo, non lo sanno. Allora sicuramente riapriranno questo di nuovo. E se no boh, non lo so. Ciao ragazzi, da Tony cambio. Avanti, chi è? Tony, eccomi qua, buonasera ragazzi. Tony? Ciao Tony, nuovo? Qualcuno mi conosce, forse con te non ci conosciamo, ma con chi parli forse qualcuno mi conosce. Non so, di questi che ci sono adesso, io boh, non mi ricordo. Forse non, se poi mi dirà di che anno, adesso mando avanti gli altri amici, avanti Carlo. Buonasera Tony, sì, un paio di volte ci siamo sentiti, anche per, se per poco tempo mi ricordo che se non sbaglio la prima volta stavi modulando dalla macchina, adesso dovresti essere in casa invece. No, sono sempre in macchina, ma sono nel parcheggio. No, e vi disturbavo un minuto, due minuti, giusto per chiedervi un'informazione da novellino. Vorrei acquistare un altro CB. Volevo dei consigli sulla marca e niente, questo che volevo chiedervi ragazzi. Sì, adesso Tony, già ti diamo delle dritte, insomma, per il poco che ne sappiamo noi. Luca è più esperto di me e sicuramente Andrea lo è ancora di più, e consigli te ne possiamo dare, e dipende da cosa vuoi fare, e ovviamente poi la spesa e la devi vedere tu, insomma. Vai avanti Andrea. Ciao Tony, ben sentito. No, l'esperto è Luca qua. Luca, dai, parli tu. Esperto, guarda, se vuoi un, per me, io parlo per me, se vuoi un baracchino da non spendere molto, io ti consiglio il Superstar 3009, è analogico, non è digitale, però io lo sto usando adesso, io sono a casa, non sono in macchina, e con quello non sbagli, secondo me, guarda, per quello che costa è un ottimo apparecchio. Avanti Tony. Eccomi qui, domanda, ma invece Midland, che io mi servo da Fusaro, l'antenna è una turbo che è molto alta, su calamita, sul tetto, io lo uso più in macchina perché viaggio molto con l'estero. Midland, non lo so, io ti consiglio il 3009, è un apparecchio abbastanza, cioè è buono come apparecchio, poi se ti vuoi prendere un 48, va bene anche il 48 in macchina, la 48, la Midland. Però guarda, se tu hai, penso che ce l'hai un telefonino di ultima generazione, ti fai un giretto lì su internet, guardati il 3009 Superstar 3009, quello che c'è, il frontalino cromato, guardatelo, poi vedi un po', quello è molto bello. Allora io provo a vedere questo Superstar, ragazzi, vediamo un po' com'è e poi... poi intanto valuto anche la RAN 48, quello che mi hai detto tu, che l'ho già visto. Provo a vedere quello. Con questo mi sto trovando bene, ma questo qui è un apparecchio che io tengo perché viaggio molto con la Romania, che è un la marca è TT e sarebbe il TCB 55 550N, con cui mi sto trovando bene, ma mi trovo soprattutto bene con la Turbo, con l'antenna sul tetto, perché è molto alta. Ah, hai la 2001 Turbo? Sì, l'ho presa blu, si è consumata molto perché l'ho usata molto fuori al freddo eccetera, e adesso con Fusaro, perché mi servo di loro, mi hanno preparato quella uguale arancione con la nuova calamita, perché è molto grande la calamita. Ho capito. E allora il discorso è, vabbè, sempre con 4 watt, poi se vuoi un piccolo aiutino magari ti basta anche un 747 come ce l'ho io, come c'ha Carlo, anche sono, come si dice, amplificatori che danno dai 50, 60, 70 watt, però ti aiuti molto, non sono pochi 70 watt, da 4 a 70 c'è una bella differenza, facciamo da 5 anche, da 4 o 5 lì siamo. Niente, vedi tu, valuti, secondo me è il massimo, il 3009, guarda, è bello. Devi solo vedere, vai su internet, ti dà un'occhiata così lo vedi. Avanti, riprendi tu, poi fai girare, Tony. Benissimo, va benissimo, io ti ringrazio del consiglio, mi riguardo, stasera mi riguardo tutti, vediamo un attimino com'è, perché volevo sostituirlo proprio per una, proprio per hobby che ho, e quindi ho detto, ma questo sta funzionando benissimo, l'antenna è perfetta, però volevo sostituirlo. Io ragazzi vi lascio chiacchierare tranquilli tutte e tre, e una buona serata, vi ringrazio tutti come al solito di avermi insomma ricevuto e ascoltato, diciamo, dalla radio, sto imparando piano piano, e niente, grazie di tutto, e piano piano imparo i nomi comunque, perché dalla voce non riconosco. Un abbraccione, passo a tutti, saluto tutti e chiudo, grazie. Allora, io sono Luca, ti mando avanti Carlo, ciao Tony, alla prossima, avanti Carlo. Tony, non ci disturbi, quando vuoi entrare ci fa sempre piacere, niente, poi tornando alla radio, e poi ti rilancio Andrea, dipende anche poi da quello che vuoi usare, la M, l'FM, le bande laterali ti interessano, e tante cose, bisogna vedere se la radio che vuoi la vuoi modificare, la vuoi tranquilla, solo con i watt suoi, quindi radio omologata, devi considerare anche tutte quelle cose. Ti rilancio Andrea, avanti Andrea. No, concordo con quello che ha detto Luca e con quello che ha detto Carlo. Anch'io sono rientrato dopo qualche anno, mi sono preso un CB proprio di ultima generazione, ma assolutamente minimalista, è un PNI semplice.